Buonasera radioascoltatori e benvenuti ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera in studio Annalisa e in regia il nostro direttore Roberto Giava. E tra poco dovremo avere anche in collegamento dall'Italia la co-conduttrice Alessandra. Ma cari radioascoltatori, vorrei innanzitutto presentarvi il nostro ospite di questa sera, ben noto al pubblico di Giro di Boa, un amico di Giro di Boa, Marco Carnovale. Buonasera. Marco Carnovale è già stato nostro ospite diverse volte, abbiamo parlato di diversi temi con Marco. Uno dei tema centrale che abbiamo sempre affrontato con lui in studio è il tema dei viaggi. Marco è infatti il presidente dell'Angolo dell'Avventura qui a Bruxelles. E prima di addentrarci nel tema della serata, prima di iniziare il viaggio di questa serata che con Marco ci porterà alle Maldive, sicuramente cari radioascoltatori vi chiederete il perché, ma lo scopriremo tra poco. Vorrei chiedere innanzitutto a Marco che cos'è l'Angolo dell'Avventura e che cosa organizza tramite l'Angolo qui a Bruxelles. Grazie Annalisa, grazie Roberto per l'invito anche stasera. L'Angolo è un'associazione senza fine di lucro che si propone di promuovere la cultura del viaggio. Che vuol dire la cultura del viaggio? Vuol dire mettere assieme persone che quando viaggiano, oltre a passare del tempo, una vacanza di riposo dalle fatiche lavorative, vogliono anche capire qualcosa di più, approfondire i paesi che visitano e quindi la cultura del viaggio. E questo noi lo facciamo a Bruxelles tramite riunioni che sono dedicate di volta in volta ad un paese e che si svolgono tramite la proiezione di fotografie, la presentazione di libri, di film o quant'altro, e poi c'è sempre un dibattito e naturalmente con la speranza poi di programmare dei viaggi da fare. E Marco, so che hai in cantiere alcune iniziative per la settimana prossima con l'Angolo. Sì, la settimana prossima abbiamo tre serate, due dedicate all'Iran, che è un paese sempre di grande interesse. Abbiamo già proiettato altre tre volte le fotografie di un viaggio che ho fatto in Iran 5 anni fa e abbiamo avuto la sala piena tutte e tre le volte, per questo abbiamo deciso di rifarlo. L'Iran è un paese che sta sui giornali, ma al di là della realtà politica che si legge sulla stampa, c'è una realtà sociale, umana, molto ricca, molto diversificata, che noi vi vorremmo proporre. Lunedì lo facciamo in lingua francese per il pubblico internazionale, mentre mercoledì 22 in lingua italiana per i nostri connazionali e i tanti che studiano la nostra lingua qui a Bruxelles. Invece sabato 25 aprile, una serata dedicata alla Guinea Bissau, una delle due Guinee in Africa occidentale, con la presentazione di un libro da parte di tre autori italiani che vengono apposta dall'Italia a presentare questo libro. Loro sono molto attivi in questo paese, a Guinea Bissau, paese un po' dimenticato, un piccolo paese, ma interessante anche lì, ricco di cultura, e presenteranno questo libro insieme a fotografie e filmati. Tutte e tre queste manifestazioni si svolgono come sempre al Cercle des Voyageurs, che è un locale molto carino concepito apposta per questo tipo di iniziative, Cercle des Voyageurs, che si trova alla Rue des Grands Carmes 18, proprio a 50 metri neanche dal Mannequin Piece, quindi è Grand Place, facilissimo da trovare, e tutte e tre le volte alle 8:30 di sera. Marco, chi volesse maggiori informazioni a riguardo o ti volesse contattare personalmente, come può farlo? Le informazioni sono su un sito, se googlate, come si dice oggi, Angolo dell'Avventura Bruxelles, vi verrà fuori il nostro sito. Oppure mi potete contattare direttamente con grande piacere al mio nuovo di zecca indirizzo posta elettronica di viaggio, che è carno.polo@gmail.com. Quindi Carno, come Marco Polo, insomma, ho fatto un po' di gioco di parole, carno.polo@gmail.com, e con piacere risponderò alle vostre domande. Hai menzionato prima l'Iran, vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori infatti che di Iran avevamo parlato durante una puntata di Giro di Boa con Marco come ospite, avevamo ripercorso il viaggio che appunto Marco ha fatto qualche anno fa in Iran e avevamo anche commentato la situazione politica attuale, il fatto appunto che l'Iran è così spesso sui giornali e nei telegiornali. Ma questa sera, come accennavo nell'introduzione, ci sposteremo più lontano, questa sera faremo un viaggio alle Maldive. Sicuramente, cari radioascoltatori, vi chiederete il perché, quindi insomma un paradiso tropicale, sono circa 1200 isole, la popolazione, Marco, più sulle o meno 400.000 scarsi, sui 400.000 scarsi, quindi sicuramente vi chiederete il perché di questo interesse per le Maldive, appunto paradiso tropicale, posto bellissimo, acque cristalline, barriera corallina, fondali stupendi, palme, spiagge. Ma Marco è reduce da un viaggio di un mese alle Maldive e non è la prima volta che si è recato alle Maldive. Quante volte sei stato laggiù? 6 o 7 volte, più o meno. Quindi approfitteremo dell'esperienza di viaggio di Marco per cercare di conoscere meglio le Maldive, che tra l'altro sono state recentemente sui giornali e anche in televisione. Qui davanti a me alcuni articoli che avevo appunto stampato in preparazione alla puntata di questa sera, che hanno diversi titoli, ma si focalizzano su due temi principali. Primo tema, le Maldive apriranno i propri media, al momento controllati dallo Stato, quindi una maggiore liberalizzazione in questo senso. Ricordiamo che l'attuale presidente Mohamed Nasheed è il primo presidente che è stato democraticamente eletto alle Maldive, quindi parleremo con Marco del cambiamento politico che le isole stanno attraversando. Altro titolo che invece, come dicevo, compare sulle pagine dei giornali è la sfida che il cambiamento climatico e le sue conseguenze rappresentano per le Maldive. Ho qui un titolo di fronte a me, Carbon Neutral Goal for Maldives, quindi con Marco approfondiremo anche questo aspetto. Vorrei tornare, Marco, un po' quello che dicevo all'inizio, quindi Maldive come paradiso tropicale, fondali stupendi, barriere coralline, palme, spiagge, prima di addentrarci un po' nei temi più politici e ambientali. Beh sì, è il classico luogo appunto da vacanza più che da viaggio, dove più di 600.000 turisti l'anno affollano quelli che ormai sono diventati quasi 100 resort. Di questi 600.000 turisti la prima presenza numericamente sono proprio gli italiani, siamo circa il 20%, gli italiani sono stati anche i primi ad aver commercializzato il turismo alle Maldive negli anni 70, a creare i primi resort eccetera. Queste 600.000 persone si distribuiscono appunto al 90% su questo centinaio di resort, mentre una piccola parte, come di cui faccio parte io, di cui hai fatto parte anche tu, si invece preferisce girarle sulle barche, queste isole, perché questo permette un contatto maggiore anche con la realtà umana, al di là delle spiagge e delle palme che giustamente appaiono sulle cartoline. Quindi un paradiso tropicale senz'altro, un contesto ideale per riposarsi, nuotare, abbronzarsi, per lune di miele, ma anche un paese interessante, molto particolare, vedremo poi come durante la trasmissione, appunto nei suoi vari aspetti sociali, politici, economici, culturali. Quindi Marco, tu dicevi che hai cercato di fare delle Maldive un viaggio e non soltanto una vacanza, anche se appunto, come si diceva, questo paese si presta alla classica vacanza. Questo paese si presta, hai ragione. Spiaggia, sì. Lettino, abbronzatura e relax, solo esatto. Relax. Però appunto tu hai viaggiato alle Maldive e voglio sottolineare la parola viaggio e viaggiato, quindi lo accennavi in precedenza, hai viaggiato in barca con avventure nel mondo. Ecco, puoi raccontare ai nostri radioascoltatori come si svolge un viaggio di questo tipo? Beh, dunque, facciamo una piccola premessa. Quella che è la politica del governo maldiviano è quella di separare la popolazione maldiviana, che abita su circa 200 delle 1200 isole che tu hai citato, dai turisti il più possibile. Poi possiamo parlare sul perché fanno questo. Quindi i turisti sono convogliati sulle 100 isole 9500 dove ci sono i resort, i vari vacanze, Valtour, Club Med e così, mentre i maldiviani, e non è possibile per un turista dormire, non ci sono proprio gli alberghi nelle isole dove vivono i maldiviani. Viceversa, non è possibile per i maldiviani frequentare le isole dove vanno i turisti, se non per gli impiegati, gli operai, le donne delle pulizie, cioè dei camerieri. Questa specie di apartheid ovviamente è una difficoltà per chi vuole conoscere un po' il paese, e è anche un artificio per cui chi si trova in questi resort alla fine si sveglia la mattina con appunto la palma e la sabbia eccetera, ma potrebbe stare ai Caraibi piuttosto che in Polinesia, non si rende assolutamente conto in realtà di dove si trovi. Allora, il viaggio in barca, arrivo alla tua domanda, permette di ovviare a questo problema, perché con le barche è consentito invece approdare in tutte le isole. Qualche volta sono private, ti fanno pagare $2, ma insomma è consentito approdare anche nelle isole dove abitano i maldiviani, anche se poi bisogna andarsene via prima del tramonto, insomma per il tramonto. E questo permette quindi un contatto con queste isole, dove si può facilmente, essendo lì la lingua internazionale, un po' l'inglese, anche se non tutti la parlano, ma è possibile quindi fare due chiacchiere, è possibile frequentare i loro negozi. Io ho visitato qualche scuola, per esempio, ho parlato con qualche funzionario governativo. Ecco, queste cose che se sei in un resort dalla mattina alla sera non è possibile fare. Quindi hai avuto diversi contatti con la popolazione? Sì, perché con le barche che appunto ho utilizzato, tra un'immersione e l'altra, se vogliamo, è sempre stato possibile, e io ho cercato di farlo, ma insomma è sempre stato possibile visitare, scendere a terra e visitare questi villaggi, in genere piccoli villaggi, che sono di pescatori, artigiani, piccole industrie, industrie della pesca, ovviamente lavorazione del pesce, e passare la giornata lì, quindi appunto visitare magari una scuola. Io trovo che nei paesi che visito è sempre interessante visitare due cose per primo, il mercato e le scuole, perché ti fanno capire in maniera anche succinta un po' la situazione del paese. L'istruzione pubblica ovviamente è la base di tutto, il mercato ti fa capire lo standard di vita, i prezzi, quanto costa, cioè. E quindi ecco, è possibile fare questo visitando questi villaggi e rendersi conto, quindi, e loro sono molto socievoli, soprattutto gli uomini. C'è un problema che le Maldive sono un paese rigidamente islamico, e quindi le donne con più difficoltà, anche se non è impossibile, ma con più difficoltà si fanno avvicinare da uno straniero, si fanno fare domande o altro, mentre gli uomini, con gli uomini è molto più facile, con i ragazzi poi è facilissimo, sono, anzi non vedono l'ora di poter. Hai detto quindi che sono socievoli, quindi che tipo di reazioni hai trovato? Quindi sono curiosi nei confronti del, non voglio dire del turista, voglio dire del viaggiatore, sì. In questo caso che tipo di domande ti hanno posto? Diciamo che sono, normalmente siamo noi come visitatori che facciamo il primo approccio, non sono un po' più timidi, magari non, a differenza ecco proprio di quello che accadeva in Iran, dove veramente lì ti venivano loro a fare domande. Le Maldive sono un po' più riservati, sono un po' più discreti, un po' più timidi, quindi il primo passo l'ho fatto sempre io, o quasi sempre io. Però poi, una volta fatto il primo passo, loro sono ben contenti, appunto nei limiti che poi detta la conoscenza della lingua, perché non tutti parlano inglese, a venirti incontro. Chiaramente ci sta quello che ti viene incontro solo perché ti vuol portare al suo negozio, e questo è comprensibile, succede dappertutto, però c'è anche quello che magari la maestra di scuola, piuttosto che il funzionario governativo locale, che invece è interessato a raccontarti come vanno le cose nel suo villaggio. Vorrei tornare ai cambiamenti politici di cui si accennava in precedenza. L'attuale presidente Mohamed Nasheed è il primo presidente democraticamente eletto. Quindi le Maldive erano che cosa? Erano una dittatura? Sostanzialmente sì, sono stato un protettorato inglese fino al 1965, poi sono stato brevemente un sultanato e poi è stata proclamata la Repubblica nel 78, quindi 30 anni, fino al 2008, esattamente 30 anni, è stato al governo un presidente Gayoom, che è stato rieletto, se non ricordo male, 6 volte, ma con elezioni farsa, con elezioni truccate, non c'era libertà di stampa, non c'era libertà per l'opposizione, anzi gli oppositori politici venivano spesso imprigionati, anche torturati. Amnesty International ha fatto parecchie denunce sulle Maldive. E tutto questo è andato via via cambiando negli ultimi 5 o 6 anni e culminando quindi con le prime elezioni libere nel 2008, che il presidente appunto Gayoom ha perso contro Nasheen, che tu hai appunto citato. Nasheen, che era un prigioniero politico, è stato un oppositore per tanti anni, per almeno 20 anni è stato uno dei leader dell'opposizione democratica e appunto torturato eccetera. Adesso questo giovane, bello, molto intelligente, colto, parla benissimo inglese, insomma viene visto un po', paragonato un po' all'Obama maldiviano, se vogliamo, gli assomiglia anche fisicamente. Ha vinto la presidenza ed è stato installato l'11 novembre scorso esattamente, e promette di dare una grossa svolta alla politica del paese. Leggevo che ha in programma di riformare il sistema giudiziario, di migliorare il sistema scolastico e universitario, di migliorare la situazione nella capitale, male sovrappopolata, di cercare di aiutare i giovani per cui la droga è uno dei problemi, sì. Principali. Ha parlato anche del suo impegno per cercare di sradicare il fondamentalismo islamico. Ecco, tu come ti sei confrontato con questi problemi e che percezione hai avuto su questi problemi parlando con la popolazione durante i tuoi viaggi? Sono tutti problemi reali, ci si può aggiungere l'alcol a quelli che tu hai citato. Le Maldive sono una repubblica islamica dove l'alcol è formalmente vietato, come rigorosamente è vietata la droga ovviamente, se non nel caso dell'alcol per gli stranieri, ma in realtà c'è un mercato nero, c'è un abuso, come spesso capita quando una cosa è vietata poi viene abusata, quindi alcolizzati, drogati, tutto questo rientra un po' nel discorso più generale della liberalizzazione, cioè il presidente ha intenzione, insomma i suoi precedenti gli danno credibilità, intenzione di voler creare una democrazia pluralista, quindi dove poi le varie politiche si discuteranno in Parlamento, ci saranno idee diverse, però quello che c'è stato fino adesso è stato invece una dittatura che ha vietato qualsiasi dibattito su questi argomenti, ha nascosto, ha spazzato sotto al tappeto, come si dice, insomma, tutti i problemi che invece si fermentavano nella società, appunto droga, alcol eccetera, facendo finta che non ci fossero, mentre invece c'erano, e facendoli così peggiorare. Quindi la speranza è che adesso, con un dibattito democratico, con un Parlamento che funziona, appunto il fondamentalismo islamico, l'alcolismo, la droga possono essere affrontati come vengono affrontati apertamente nelle altre democrazie. Hai parlato quindi di un presidente giovane e popolare, una sorta di, per così dire, Obama maldiviano. Che atmosfera hai respirato a Male, nella capitale, a riguardo? Che cosa appunto hai percepito nei tuoi incontri con la popolazione? Quindi hai percepito questo entusiasmo, questo supporto, io immagino una contentezza per il cambiamento? Sì, assolutamente sì. Mi pare che lui abbia vinto con il 57-58%, correggimi se hai idea. Comunque ha vinto con un margine 57%, credo, abbastanza chiaro, sostanzioso. Probabilmente avrebbe vinto con un margine ancora superiore, avrebbe vinto con una vera valanga di voti se non ci fossero state comunque pressioni da parte dell'entourage del presidente, tentativi di comprare voti, distribuzione di favori, eccetera, che comunque non sono serviti alla sua ennesima rielezione. Quindi sì, c'è questo grande aspettativa, soprattutto da parte di chi guarda un po' al di là della punta del proprio naso, perché le Maldive dal punto di vista strettamente economico, del benessere sociale, del benessere materiale, il presidente precedente aveva fatto un lavoro notevole, nel senso che erano pescatori analfabeti e sono diventati, grazie al turismo e grazie alle licenze che danno anche troppo ai paesi stranieri per la pesca, sono diventati un paese con un reddito che viaggia intorno ai 3-4 mila dollari l'anno, che voglio dire, è 4 volte quello dell'India e 3 volte quello di Sri Lanka. Quindi sì, c'è un certo benessere che si è diffuso, ma quello che mancava e quello per cui tanta gente che appunto ha cominciato a saper leggere e scrivere, ha cominciato ad avere nella casa il telefonino, tutti i malati di telefonini più che in Italia, così, hanno cominciato anche a porsi delle domande di tipo politico, quindi che libertà di espressione, che vogliamo fare, e questa è la grande sfida del presidente. Le aspettative sono grandi, 30 anni erano comunque tantissimi sono tantissimi per chiunque, quindi era fisiologico già da tempo, insomma, che ci fosse un cambiamento, e l'opposizione, dopo essere stata appunto schiacciata per tanti, perseguitata, molti sono dovuti emigrare all'estero, soprattutto a Sri Lanka, poi alla fine c'è stata una mediazione che ha portato, fatta dall'Inghilterra e da Sri Lanka, ha portato a una appunto a un'elezione che per la prima volta è stata libera. I paesi musulmani che hanno elezioni libere, nel senso che noi intendiamo della parola, con un'opposizione vera, campagna elettorale, eccetera, non sono molti, no? Possiamo pensare forse all'Indonesia e, non so, qualche volta forse alla Malesia, ma ultimamente. Quindi è una cosa importante che in un paese islamico ci sia stata un'elezione veramente libera, che ha portato il capo dell'opposizione al governo con un programma completamente alternativo rispetto a quello perseguito finora. Bene Marco, direi di fare ora una pausa musicale e poi ritorneremo a parlare delle Maldive e parleremo di come le Maldive si stanno preparando a fronteggiare le conseguenze dovute al cambiamento climatico e a tutti i problemi che ne derivano. Bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì, sulle frequenze di Radio Alma 101.9. In studio Annalisa e in regia Roberto Giava, ospite qui con noi questa sera un amico di Giro di Boa, Marco Carnovale, presidente dell'Angolo dell'Avventura a Bruxelles, con il quale stiamo compiendo un viaggio nelle Maldive. Marco è stato alle Maldive diverse volte, è reduce da un mese di viaggio alle Maldive in barca, un mese di immersione. Magari poi tra un po' parliamo anche delle immersioni dei fondali maldiviani, ma stiamo approfittando dell'esperienza di Marco, appunto dei viaggi che ha fatto, per cercare di capire, di appunto parlare di alcuni importanti cambiamenti che le Maldive hanno attraversato di recente. Le Maldive hanno ora un presidente eletto con elezioni veramente libere e democratiche dopo decenni di, insomma, diciamo quasi dittatura del precedente presidente. Ora c'è questo nuovo presidente giovane, Mohamed Nasheed, che ha promesso di portare cambiamenti e riforme nel paese. Quindi abbiamo raccolto le impressioni di Marco dopo che appunto è tornato dal viaggio, ha avuto l'occasione di parlare con maldiviani nei villaggi che ha visitato. E come dicevo in apertura, un altro importante tema che le Maldive stanno affrontando sono le conseguenze dovute ai cambiamenti climatici. Si diceva in precedenza, le Maldive sono costituite da circa 1200 isole, più o meno una popolazione sulle 400.000 persone, e nessuna di queste isole misura più di 1,8 metri sopra il livello del mare, quindi è un paese estremamente vulnerabile all'innalzamento dei livelli del mare, che ovviamente sono associati ai cambiamenti climatici. E dicevo in apertura di alcuni titoli di giornale che ho letto a riguardo. Le Maldive si preparano a fronteggiare il cambiamento climatico, dice un articolo, e un altro articolo parla di Carbon Neutral Goal for Maldives. Come potremmo tradurlo in italiano ancora non ci è molto chiaro. Potremmo tradurlo come: le Maldive stanno cercando di arrivare ad una anidride carbonica sostenibile, ad un impatto zero in termini di anidride carbonica. Ecco Marco, quali sono le tue impressioni a riguardo di ritorno dal tuo viaggio? È un problema di cui hai parlato con le popolazioni locali? Beh sì, ne ho parlato, però più che parlato ho cercato di studiarlo un po'. Sì, non sono cose ovviamente alla portata così dell'uomo qualunque, ma il problema c'è. Appunto, come tu hai detto, si tratta di isole molto basse. Gli atolli si formano, come sappiamo, dallo sprofondamento di vulcani, quindi una volta lì c'erano delle alte montagne. Sono vulcani molto vecchi, questi nel corso dei milioni di anni sono sprofondati così giù nelle abissi che ora appunto è rimasta solo questa crosticina di corallo che segna il vecchio limite dei vulcani. C'è il problema dell'innalzamento delle acque, sul quale io non mi voglio avventurare perché non sono assolutamente un esperto, ma se si pensa, c'è chi non è d'accordo, che questo avverrà nei prossimi decenni, nel prossimo secolo, e se questo avverrà è chiaro che le Maldive ne saranno colpite in modo molto diretto, perché anche un innalzamento diciamo di mezzo metro, di 60 centimetri, come si legge in alcuni scenari, potrebbe portare alla perdita della quasi totalità delle superfici emerse di questo stato. Non è l'unico dei problemi ambientali, c'è anche stato lo tsunami alle Maldive nel 2004, ce ne sono stati altri di minore entità in altre annate. Il grande tsunami del 2004 ha colpito anche le Maldive, e quindi si pone un problema di come proteggere la popolazione da questi eventi dovuti all'innalzamento delle acque, sia graduale per il cambiamento climatico, sia violento e immediato per lo tsunami. E il governo maldiviano ha già quello precedente, ma questo ancora di più, sta predisponendo una serie di ipotesi per ovviare a questo problema. La prima ipotesi è quella di comprare real estate, comprare case, terreni in altri stati, cioè se le Maldive verranno sommersi, i maldiviani dovranno andare a vivere altrove, quindi comprarsi terreno altrove. La seconda ipotesi è di costruire alcune isole siano più alte, quindi dal 1,8 metri, 2 metri, che appunto giustamente dicevi tu, portarle anche soltanto a 3 metri, che per noi potrebbe sembrare ridicolo o comunque una stupidaggine, ma quel metro, metro e mezzo in più potrebbe fare la differenza tra l'annegare e rimanere all'asciutto. E la terza cosa che sta facendo il governo maldiviano, che forse è la più importante, più immediata per gli effetti che potrà avere, è quella di cercare di ridurre il numero di isole abitate, consolidare la popolazione. Dicevamo che i 400.000 maldiviani vivono circa 100.000 a Malé, che è super affollata e però può essere difesa, ci sono frangi flutti, si potranno migliorare. Gli altri 300.000 sono sparsi in altre 200 isole. Difendere 200 isole da tsunami, innalzamento del mare, eccetera, è difficile. Difenderne magari una cinquantina può essere più facile, e quindi il governo sta incentivando una politica di consolidamento delle isole abitate, che non tutti amano evidentemente, perché famiglie che hanno vissuto per generazioni su una certa isola ovviamente non amano essere sradicate e portate altrove. Marco, ti interrompo un attimo per verificare se Alessandra, la nostra co-conduttrice, è in collegamento. Mi fanno cenni dalla regia che non è in collegamento, quindi ti ridò la parola. Ritorno a quello che stavo dicendo in apertura, questo obiettivo di diventare carbon neutral e di focalizzarsi su fonti di energie rinnovabili come l'energia eolica e l'energia solare, ha dichiarato il nuovo presidente. Sì, questo il presidente l'ha dichiarato, l'aveva dichiarato anche il precedente, ed ha una valenza simbolica. È evidente che quanta anidride carbonica o quanto inquinamento di altro tipo possano produrre le Maldive è assolutamente irrilevante nel contesto mondiale. È rilevante anche per loro stessi, perché se si innalzano gli oceani non si innalzano certo per quello che producono le Maldive in termini di inquinamento. Quindi la loro è una posizione di principio per la quale si battono nelle varie conferenze internazionali, all'ONU, eccetera, e vogliono dare il buon esempio, se vogliamo, quindi cominciando loro stessi a ridurre questo tipo di produzione, di combustione, di economia di tipo tradizionale che è più inquinante. Però è chiaro che l'unico modo per salvarsi per il paese, nella misura in cui, lo ripeto, questo è veramente un problema che si concretizzerà, e c'è un dibattito su questo, ma nella misura in cui questo è vero, è chiaro che per loro è politicamente prioritario lavorare in un contesto multilaterale, quindi con gli altri paesi. Ci hanno vicino l'India, che è un grandissimo produttore invece di gas inquinanti, anidride carbonica e compagnia cantando. È chiaro che loro con l'India hanno un rapporto politico molto buono, ma se l'India non fa qualcosa, per le Maldive non c'è speranza. Mi fanno segni dalla regia che Alessandra dovrebbe essere in collegamento. Ciao Alessandra. Con Marco abbiamo intrapreso un viaggio nelle Maldive, abbiamo parlato dei cambiamenti, delle riforme che ha in programma di attuare il nuovo presidente Mohamed Nasheed. Stavamo giusto parlando con Marco delle possibili iniziative che le Maldive potranno prendere per fronteggiare le conseguenze dovute al cambiamento climatico. Alessandra, ti vorrei lasciare spazio, hai qualche domanda, qualche curiosità per Marco, che è reduce da 30 giorni di immersioni? Più che qualche domanda o curiosità, avevo un po' di invidia. Beh, vieni anche magari tu la prossima volta. Diciamola chiaramente. Voglio dire, dopo un mese di Maldive. No, comunque volevo chiedere una cosa a Marco. Perché prima sentivo quando parlavate dell'innalzamento delle acque, eccetera. La popolazione è cosciente di questo problema, prima cosa, e secondo te effettivamente ci saranno dei grossi problemi oppure no? Perché ricordavo recentemente di aver letto un articolo in cui c'era un esponente del governo italiano che dichiarava che i cambiamenti climatici non saranno immediati e non saranno neanche così spaventosi come molti scienziati hanno preventivato. Dunque diceva praticamente che quello che stanno facendo attualmente è solo del puro e proprio allarmismo. Tu cosa ne pensi? Ma sulla tua prima domanda, senz'altro una coscienza c'è, ti so quantificare in che percentuale, ma c'è una campagna che si sviluppa da anni, appunto già col precedente presidente alle Maldive, di rendere cosciente la popolazione di questo problema. E parliamo dell'inquinamento, se invece parliamo dello tsunami, quindi il problema di innalzamento delle acque immediato, violento, per quel tipo di fenomeno, è chiaro che la coscienza ce l'hanno ben spalancata, perché nel 2004, quando c'è stato lo tsunami in Indonesia, c'è stata anche l'onda, è arrivata anche alle Maldive. Se ne è parlato poco. Io mi riferivo più all'innalzamento, quello graduale. Quello graduale, sì, c'è una politica appunto di presa di coscienza. Le Maldive si danno molto da fare a livello internazionale, nelle varie conferenze internazionali sull'inquinamento, le Nazioni Unite, eccetera. Io non sono un ambientalista, un esperto di ambiente, quindi non ti so dire quanto si potrebbe innalzare il livello delle acque, in base a quali parametri potrebbe cambiare questo livello di innalzamento, aumentare o diminuire. Quello che vedo, che leggo informandomi, è che c'è un dibattito aperto tra gli scienziati. Gli scienziati non la pensano tutti allo stesso modo. C'è chi dice che questo fenomeno appunto sia in realtà stato esagerato, c'è chi dice che invece sia una cosa reale, e nel worst case scenario, se vogliamo, insomma nel caso, nella gamma di scenari possibili, da quello che ho letto io, il peggiore di cui si parla, il peggiore possibile, è un innalzamento di intorno ai 60 centimetri nel corso di questo secolo. 60 centimetri che in un paese appunto che ha un'altitudine massima di 2 metri è tantissimo, vorrebbe dire la sommersione di una grossa parte delle superfici emerse. Non vorrebbe dire necessariamente la sparizione del paese, perché si può ovviare in parte a questo con contenimenti artificiali, con frangiflutti, con come hanno fatto, se guardiamo gli olandesi, insomma, gli olandesi hanno avuto, lo dici a me. Che tu abiti lì adesso, quindi gli olandesi hanno avuto un problema, diciamo, se vogliamo, simile, dovuto riprendere, strappare terra al mare per poterci vivere sopra. Ecco, le Maldive potrebbero dover fare un discorso del genere. Quanto poi questo appunto vorrà dire in termini di costo, in termini di sradicamento culturale, gente che si dovrà spostare da un'isola all'altra, io penso sia un po' prematuro dirlo, però senz'altro loro sono ben coscienti che il problema esiste, si stanno dando molto da fare appunto a livello internazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale, perché come dicevamo prima non è assolutamente sufficiente che le Maldive diventino verdi, che non producano anidride carbonica, perché sono 400.000 persone in un paese in via di sviluppo, accanto c'hanno 1.200.000.000 di indiani, e quindi è molto più importante negoziare e parlare con loro. Marco, purtroppo dobbiamo chiudere con l'argomento Maldive. Noi ti ringraziamo per il tuo contributo e per averci fatto viaggiare alle Maldive attraverso il tuo racconto, attraverso la tua esperienza. Ma ricordiamo in chiusura l'appuntamento con l'Angolo dell'Avventura per la settimana prossima, lunedì e mercoledì sull'Iran, per chi non c'è già stato, il lunedì in francese e il mercoledì in italiano, e sabato invece sulla Guinea-Bissau, un paese africano, che sarà illustrato da alcuni ragazzi che ci lavorano con organizzazioni per l'aiuto e lo sviluppo. Tutte e tre le serate alle 8:30 e tutte e tre le serate al Cercle des Voyageurs a Rue de Grand Carme 18, proprio accanto al Mannequin Peace, quindi siete invitati a venire. Grazie Marco, e speriamo di riaverti presto ai microfoni di Giro di Boa qui a Radio Alma. Passo ora la parola al nostro direttore in cabina di regia, Roberto Giava, con il quale vogliamo ricordare, cari radioascoltatori, come potete fare se volete donare qualcosa a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo. Sì, Annalisa, è semplice. La Camera di Commercio belgo-italiana ha allestito una colletta di fondi per le vittime del terremoto negli Abruzzi, ed è accessibile tramite versamenti o bonifici sul conto dal seguente numero 643 00 42 149 31. Ripeto, 643 00 42 149 31. Le coordinate per i bonifici sono disponibili anche sul sito di Radio Alma, radioalma.be, o anche quello del nostro podcast, radioalma.blogspot.com. Roberto, ora mandiamo in onda un'intervista che il nostro collaboratore di redazione Maurizio Molinari ha realizzato con Luca Cucchiella, una persona dell'Abruzzo, quindi colpita dal devastante terremoto che c'è stato. Manderemo in onda qualche minuto di questa. Mandiamo un estratto. Parte integrale, come sempre, disponibile nel nostro podcast al sito radioalma.blogspot.com e anche ovviamente sul gruppo Giro di Boa presente su Facebook. Luca Cucchiella, tu sei uno degli sfollati del terremoto, ci racconti qual è stata la tua esperienza quella notte? Guarda, sicuramente una cosa non facilmente descrivibile a parole, perché mi sono aperto gli occhi non avvertendo nemmeno da subito praticamente le vibrazioni, non capivo cosa stava accadendo. Quando ho aperto gli occhi le mura e il tetto sembravano un diapason, uguale, come un diapason, esattamente come un diapason, vibrava tutto e il rumore era assordante, sembrava essere un mini pimer quasi. Quindi sei scappato? Sì, sono scappato senza praticamente portar via nulla, sono sceso di corsa in pigiama, in pantofole, ho fatto appena tempo a prendere gli occhiali e sono corso fuori, ho aspettato soltanto che terminasse la prima scossa perché insomma come molti sanno non è bene avventurarsi per le scale in quei momenti, ho appena finito la prima scossa sono scappato via. La tua casa in che condizione è? Sei potuto rientrare poi dopo? La mia casa fortunatamente sembra non presentare particolari danni perché noi siamo fortunatamente nel lato opposto a quello dove ha provocato più danni il terremoto, solo che non è ancora stata decretata l'agibilità, quindi tutti noi non possiamo rientrare in casa e viviamo in campi di sfollamento. Tu nei campi di sfollamento non solo ci vivi, ma dai anche una mano con la protezione civile. Ci puoi raccontare, sono veri quegli episodi che parlano di gente che si lamenta magari, non so, perché in questi giorni si è fatta un po' l'epopea degli sfollati, che per carità è giustissimo, però sono veri, insomma, che c'è anche delle persone che hanno un po' questo coraggio di lamentarsi, per esempio, del cibo che viene portato, oppure del... Ah beh, sì, certamente, mi è capitato in più di un'occasione, in pochi giorni, insomma, più volte, io ero stato addetto alla cucina, quindi nei primissimi giorni in cui, come giusto che sia, i primi aiuti non sono arrivati nella nostra zona, perché era la zona colpita sì, ma meno duramente, quindi la protezione civile è arrivata nei giorni successivi, quindi nelle primissime fasi abbiamo dovuto pensare un po' a tutto noi del posto, del paese, arrangiandoci con alla bene e meglio con quello che avevamo, fornelloni da campo e tende provvisorie. E c'è stata gente, diverse persone che comunque hanno preso la cosa un po' per come una sagra di paese, devo dire, nel senso che sì, aspettavano di essere serviti e riveriti, dovevamo pulire i tavoli, o magari discutevano su quello che c'era da mangiare. Spero non fosse la maggioranza delle persone comunque. No, sicuramente una minoranza, poche persone che però in quei momenti comunque di tensione ti nervosiscono abbastanza, insomma. Però per fortuna, insomma, poi le cose sono migliorate col tempo. E analizza l'intervista integrale, andrà in onda, come si è detto, direttamente nel nostro podcast, accessibile al sito radioalma.blogspot.com. Analizza soltanto magari il tempo di, da parte mia almeno, di comunicare la commemorazione di Marcinelle. Si comunica allora che sabato 18 aprile alle ore 10.30 presso il memoriale del Bois du Casier a Marcinelle, la Regione Puglia ricorderà con una breve cerimonia i 22 minatori di origine pugliese caduti nella tragedia dell'8 agosto 1956. Una lapide commemorativa sarà scoperta dal presidente Nichi Vendola, accompagnato dall'assessore alla solidarietà, politiche sociali e flussi migratori Elena Gentile. Radio Alma e Giro di Boa saranno infatti presenti a Marcinelle, intervisteremo il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, e ovviamente l'intervista verrà mandata in onda in una delle prossime puntate di Giro di Boa. Siamo quasi in chiusura, direi un ultimissimo annuncio per quanto riguarda le elezioni europee che si terranno il 5-6 giugno, questo 5-6 giugno. Il Consolato d'Italia qui a Bruxelles ha inviato informazioni per coloro che siano interessati ad esercitare le funzioni di presidente, scrutatore e segretario presso gli uffici elettorali di sezione che saranno costituiti presso il Consolato d'Italia a Bruxelles. Chi volesse maggiori informazioni può contattare direttamente il Consolato d'Italia, Rue du Livourne numero 38, allo 02 543 1550, o può mandare un'email al seguente indirizzo: segreteria.bruxelles@ chiocciolaesteri.it. Quindi questo per quanto riguarda gli elettori che vogliono appunto che siano interessati a esercitare le funzioni di presidente, scrutatore e segretario presso gli uffici elettorali. Tutti i connazionali che sono regolarmente iscritti all'AIRE e siano interessati a votare per i candidati italiani, ovviamente lo potranno fare presso le presso il Consolato d'Italia appunto a Bruxelles in Rue du Livourne, e gli elettori italiani regolarmente iscritti all'AIRE riceveranno a casa il certificato elettorale con l'indicazione della sezione presso la quale votare, e chi non avesse ricevuto entro il 2 giugno il certificato elettorale potrà contattare direttamente il Consolato. Ma Roberto, per quanto riguarda le modalità di voto per gli italiani regolarmente residenti all'estero iscritti all'AIRE, abbiamo in programma di invitare qui a Giro di Boa il Console d'Italia Dino Sorrentino per appunto avere maggiori informazioni. Quindi cari radioascoltatori, vi terremo aggiornati durante il mese di maggio. Siamo in chiusura, mancano pochi minuti alla chiusura, vorrei salutare Alessandra, sei ancora in linea. Beh, buonasera a te, buonasera Roberto e a tutti gli amici radioascoltatori, e un grazie a Marco per il suo intervento. E ancora un grazie al nostro ospite di questa sera, Marco Carnovale, presidente dell'Angolo dell'Avventura a Bruxelles. Grazie Marco. Siamo in chiusura, grazie Alessandra, e a risentirci con tutti i nostri radioascoltatori giovedì prossimo.